Un proverbio che conosciamo tutti dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Un altro meno conosciuto ma altrettanto famoso è: dimmi che cosa leggi e ti dirò come pensi. La stessa cosa può valere, amici, per la Bibbia. Se tu leggi la Bibbia, se la leggi bene, finisci che alla fine tanti tuoi modi di pensare e di esprimerti hanno il sapore biblico. Modestamente io è da 50 anni e più che leggo, amo, prego, studio la Bibbia e mi sembra che il mio modo di pensare è abbastanza impastato di pensiero biblico. Per cui quando ho sentito oggi la lettura del libro dei Numeri al capitolo 20, ho riconosciuto subito e ha fatto sobbalzare il mio cuore una frase ripetuta due volte. Per dire che Aronne doveva morire, la Bibbia dice: Aronne sta per essere riunito ai suoi padri. Aronne sarà riunito ai suoi padri e morirà. Come mi piace questa frase, amici. Come mi aiuta a vedere la morte nel modo e con l'occhio di Dio. Noi abbiamo bisogno di evangelizzare la nostra vita, ma anche la nostra morte. Io non so se noi moriamo da cristiani, amici. Alcune volte sì, altre volte mi sembra che accostiamo la morte da pagani, ma che differenza quando arriviamo da cristiani. Io ricordo, ero andato a dare l'unzione dei malati a una mamma anziana, circondata. Io chiedevo se possibile che ci fossero i figli quando mi recavo in casa a dare l'unzione. Io ho presente alcune scene bellissime. Sul lettone grande della nonna bis che si spegneva c'era la pronipote che gattonava e io la lasciavo fare perché mi sembrava così bella che la vita si unisse alla vita eterna in questo modo. O altre volte mi ha emozionato sentire dei maschi, non delle donne, dei figli che di fronte alla sofferenza della mamma dicevano, un figlio diceva quasi singhiozzando: papà, vieni a prendere la mamma. Bellissimo, bellissimo. Che modo diverso di vivere, eh? Oppure forse sarà capitato anche a voi di sentire qualche persona che nel colmo della sofferenza e nell'avvicinarsi alla morte magari invochi: mamma, mamma, perché in questi momenti coloro che ti hanno dato la vita, tuo padre e tua madre, ti devono accompagnare. Aronne sta per essere riunito ai suoi padri. Oh Signore Gesù, io ti chiedo per me e per i miei cristiani che il mio, il nostro avvicinarci all'incontro con te, che si chiama anche morte, avvenga in questo clima, in questa aria, che andiamo a incontrare quell'uomo e quella donna che ci hanno generato alla vita fisica e che oggi, o che è il momento della morte, saranno alla presenza della conclusione della nostra vita fisica, non solo, che andiamo a incontrare quell'uomo e quella donna che con la loro fede ci hanno generati alla fede in te, Gesù, e che aiutino il nostro passaggio alla vita eterna verso di te. O Signore, fa che anch'io e tutti coloro che credono in te e nella tua parola imparino a vedere la morte come un essere riuniti ai nostri padri.